canzone Gianna doppio ru, la cosa è bella. Che è morto un'altra persona lì a Porto Torres, il coronavirus. Sì. Oh, un signore di una certa età. Ah, andiamo bene voi. Casino, casino grande. C'è morto il coronavirus, cosa, boh? Boh. Beh, tutti dormiti siete, ma però. Ciao Tino. Vabbè, mi sono rotta la mano. Comunque me la compro una macchinetta buona, va. Me la acquisto così, sono sicuro. Perché stava tagliando bene e poi tra un tratto, borra io le farata. Non tagliava più, agganciava e basta. Manco la barba mi taglia più adesso. Per carità. Ciao Eugenio. Sei così? Sto pensando anche io vivamente di fare la scelta, ma non lo so, è sempre mi lascia a metà, tocca fare la metà adesso. Infatti io le ho fatte la metà perché la parte più brutta era lì, meno male che riuscita a aggiustarmi la metà, dai, stavo crescendo comunque, dai. Già ci sono, prima proprio pelle e pelle, adesso stavo crescendo. Senti, a me corti corti non mi ci trovo, così, vabbè, sono tagliati male, però sono sistemati bene, diciamo, un pochettino più lunghetti, già, mi trovo bene io, poi degli altri, non è che me la fotti assai, eh. Perché mi fai come me, una volta, non ci spiamo, se ne cresci. Ma non c'è niente più bello stare a banchino con due bicchieri che c'è più gente, non andare a lavoro, cosa ne sa? Chicca, da buono, vabbè, a Gappiazzi. Il mio mietto, grazie. Cosa ne sa? Per me. Ma perché non mi arrivato il pisabo, per carità, va. No, io adesso mi ci trampo al divano e poi corsetta e poi basta. Corsetta, ti lasci a casa, ti. Cosa corsetta? Io ho il tapirulo, è l'uso. Ah, non so, tu quanto ne hai? Io sono del 70. Andare. Se mi chiedi, tu c'hai l'età di Stefano, Tino. Stefano fa 50 anni a dicembre. Sveglia, l'ho trovato tempo fa, dai. Tempo fa, qualche mese fa. Sì, perché lui è 70, io sono 74, più grande di me. Invece Carletto è del 69. Carletto fa 51 anni. Ad aprile, 22 aprile 1969. Ehi, abbiamo ricordato che Carletto era qualcosa più grande di me. Quando li fai 50? A ottobre. Ottobre? Quando? Il 9. Dai, io il 12. Voglio gli auguri e il regalo, mi raccomando, non mancate. Perché credi che non entri tra questa? Scusa, prima non mi azzardavo, ma adesso sì. Cosa vuoi ti come regalo? Che te ne faccio il nome? Un pezzo di mammo morbido. A brodo. Vabbè, ragazzi, tenetevi conto, che c'è Morfeo che aiuto, ma non bene. E io non lo voglio deludere. Cade a te, ma lavora lo staffi. Positivo Caparroio, dai, Eugenio, se tu ascolti Luca, imbarrato mobile, coordinate col dottore se la parte mia, dai, merito per Genova, che carico di petardi a scoppio. Wow, ciao. Ciao Tino, buon riposo. Ma se ti mando una foto, veglia. Va bene, ciao, che mi sto rilassando. sota più tonto. Che avanti? Segnale 9, radio 5, K Franco California, se tu ascolti questa piccola modulata. Dove si fa? Mi faccia anche Buffo, vai Buffo. Elia, ciao Franco, ben sentito, ti ascolto. Pio Pio, sei un altro canale qui, sei matto matto, lo senti di qua. Chi è? Non sento nessuno io. Avanti, Gianni doppio rombo. Il nome è Gianniso, allora vediamo un po'. Costanzo. Ciao, buonasera a tutta la ruota. Costanzo. Mi compagnia di Guffo, non so se lo ascolti, è Franco California. Avanti, Guffo, lo senti a Costanzo. Buonasera, ben sentito da questa parte. Ciao, buonasera, ben sentito anche a te da questa, dai, salutando anche California. Va bene, da Franco California, ma sempre spostano l'antenna, stai, gatto. Lasciano una nigana. Allora, poco fa, non so se ce l'hai come amico Per Franco, dai, il figlio di Fortunato, ce l'hai come amico su Facebook? No. Comunque gli hanno fregato la batteria al camion. Allucinante. Queste cose da pazzo, da oggi devo venire qua a portare roba da mangiare, là. Cibo per Sassari. E invece? Che ne vuoi della batteria? Che caputo siamo arrivati. Lo schifo veramente, va, non ho parole. I sciacalli, però ho preso i sciacalli davvero, Ma se continua così la cosa sarà sempre peggio, A tutti i giocatori, per carità. È uno schifo, veramente uno schifo, va. Andiamo, speriamo che gli vediamo questi soldi, a chi non sa niente, il suo capolaio, il ponte, e rispetto a questa gente sarà sempre male, specialmente quelli che lavorano a giornata, e quando lavorano, quelli che non sanno niente da quelli, quella gente dovrebbe aiutare. Infatti, ho già preso l'SSI oggi, che è il telefono che c'avevo prima, cioè poco a poco l'ho rotto, mi gira, magari mi racconto, ma su S10, avevo le 200 euro per puntarlo. E lasci arrivare? Il telefono è nuovo, costa, è nuovo il telefono, e siamo i posti in dinamico S10, se ne ha fotti. È ancora in garanzia, perciò c'è ancora la garanzia a casco, mi scade a giugno. Allora va a tenere la guida, a mantenere il razzo, se è buono, no? No, l'S10 è un bombo, come cosa più grande però questo qua, lo schermo. Questo è un 64 giga, l'S10 128. Dietro tutto! Via, grazie, sono qua. Via, famiglia, ha salutato poco fa Costanzo, non so se l'hai sentito. Ciao, buonasera e ben sentito. Guarda, segnale 7 radio Super 5. San Camillo io. Buffo si è sentato, si è detto che è cucina. E io ti sto arrivando a Califò. Adesso sì, 9:20. Cosa hai fatto? Sì, prima di 9, ma se 9:20, cosa hai fatto? Portacci tu, mi sento nel buono del televisore, abbascia. Positivo, frate, la cosa è bella, dai, gatto. Comunque ieri ci siamo divertiti, la cosa. Ieri ci siamo divertiti, sì. E oggi speriamo che sabbia, ma è pare grigia la cosa. No, ieri era una bella giornata, calda, e poi... No, oggi, secondo me oggi no. Ma quando si apre bene è un casino fare i collegamenti. Perlomeno per me, se non c'è qualcosina sotto. Ma basta prendertela qualcosina, attacchi, no? Anche poco ti aiuto. Stavo cercando, sono stato promesso bene, non scacciarmi tanto, ma non sono 747. Io no, non ne ho mai avuto di questi. Tu hai chi sei, ma fai tosta. Cazzo dicendo. Io ho visto anche quello giovanile originale, mistica. Mi sa vero pare una, come si chiama, una... Dice che ti attrema a fare una piastra. E la mano la stessa, Cavolo, bella cosa, dai, bella cosa. Mi sono convinto di questo telefono, cioè il numero più grande, più bello, poi è velocissimo quel telefono, non è che è abbastanza fluido. Ma sistemarla allora, Lucari? Sì, 32 lo so. Contendo i miei lui, mi sono venuto a 270, ma siccome ti uso cuffa, ti do con 70 euro. No, qui si vedeva ne bucciare a cara. Ah, casino, sei nata. E Lucari, riprendo dopo, dai. Siamo qua, se no ti sono venuti vicino. Aspetta la Massimiliano, va. Dobbiamo fare una cosa. Avanti, break poca radio. Come? Posto della notte? Lupo della notte, da dito. E basta, guarda, se va a segnare 5, la roba di giro vulcano. GG. Stavo sbagliando vulcano. Intanto ci fa lo scherzetto, eh. Fallo modulare, fallo, ve lo sentiamo. Dai, modula, lupo della notte. Gigi Vulcano, dai, ti abbiamo scoperto, vieni fuori. Mi gioco l'S10 che gira un vulcano, io, ci stai? E mi gioco il telefono, l'S10 che sei tu. Gigi, dai, che lo riconosco in mezzo a mille. Gigi Vulcano, guarda che attacco le ruote qua, lo faccio girare questo corracchino. Vabbè, dai, se te lo stacco, va. Lì fuori si è sentato, là. Tutto normale, senza bip, senza niente, là. Così ho visto. Allora, aspetta, fammi vedere il tutto. Allora, senti lì, allora, quando ho messo 20. Praticamente sto uscendo con 2 watt. Un watt e picco di 10 modulati. E certo. Così sono a 5, 8 watt. O 13-14 watt, dai, al massimo sono. Attenzione, Gigino Vulcano, No, Gigi, sicuramente il microfono, perché la radio qua è bella pulita, io sono più vicino, lo sento benissimo. Questione di microfono è per la tonalità della voce, come lo senti tu. Fatica a sentirlo. Gigi, ma non per fare niente, facciamo fatica ad ascoltarti. Fai un po' di radio, il segnale c'è, la radio che non c'hai. No, non c'hai proprio radio, sei radio 1. Cazzo, Gigi, stavo avendo il Parkinson. Cosa sta dicendo? Non ho capito, ripeti. MT è a luna, così, ma mi innesca, capito? Allora, aspetta. No, così la manetta, non posso, se me la dici io innesca, capito? Vedi? Qua c'è la manetta. Uno Zodiac. Aspetta. Ma tu mi hai detto, se ne abbasso qua sopra mi innesca, tu mi hai detto a me che basta fare un, non so, un diodo, mi sa, una resistenza dalla capsula al PTT, giusto? O no? O un condensatore, boh. Positivo l'ha fatto lui, aspetta questo qua, cosa era? Aspetta, ne provo un altro, là, un attimino, stacco e provo l'altro. Thank you. Aspetta lui, che stacco il microfono e proviamo l'altro. Poi mi hanno detto che è meglio questo, dai. No Gigi, tutti fermi, siamo tutti in cassa, aspettando tempi migliori. No, no, noi ce l'avevamo già provata la settimana scorsa. Guarda un po' Gigi, questo è l'altro. Uno, due, tre, prova, attenzione Gigi, o Vulcano, guarda. Con questo, Cosa? Che va meglio questo microfono, Lu? Va meglio questo? Boh, gli altri mi dicono meglio l'altro, adesso boh, è un casino. Boh. Allora, il discorso è che questo qua avrà anche il PTT sporco, perché fa... Lo senti? No, no, la modulazione è bella pulita, ha cambiato anche la tonalità della voce, meno, diciamo, meno tamburlana. Ah, ecco, allora lasciamo questo. Prova a dargli appena appena di eco. Guarda, guarda un po', costa, gatto. Costanzo, se ascolti qua, lo straniero in Sardegna. Allora, Lucaria, a me mi piace più io, poi non lo so, poi fai tu, vedi tu. Di fianco, Gigi, allora così è frontale, e così è di fianco, Gigi non vuole. E gira meglio anche l'eco. Aspetta, grazie, cosa costa? Che gira meglio anche l'eco? Ah, ok, lasciamo questo qua allora. Eppure costa, non tanto, la capsula è uguale. Gigi, c'è Gufo che ti sta chiamando. Io, Gufo, mi senti? Tanto già entro là, nel sentito, gaba gaba. Sì, sì, siamo noi tre. Provo, mi sa, non lo senti costato. Non c'ha niente, non c'ha, non devi giocare con la, col coso, schiaccialo una volta e basta, Luca lì. Sì, ma amico, l'altro è bello, lo sai che è sporco, mi sa che sputa un po' di prodotto. Non se li vuoi sputare un po' di prodotto, ma poi a gusti miei mi piace più ghiccio, poi ripeto, non lo so, vedilo tu. Infatti adesso due secondi lo apro, tanto tra un po' arriva Massimiliano, penso, altro si cicco in mezzo a sé, devo fare una prova. Vedi che in confronto a come ti sento, cioè ogni tanto che entri bello prepotente, adesso sei un po' bassino e non è che non si nota, perlomeno da me non si nota, non so se da Costanzo se ha notato qualcosa, vai Costanzo. No, no, non ha cambiato niente, G. E io positivo. Sì, vabbè, dai, non sai, non c'è poco c'è vita, vabbè. Hai già l'avevo sentito. Gigi, questo malattino allora ha diversi problemi. Uno, quando inserisci le cuffie, le stacchi e rimane silenzioso. Allora, con potenziometro, il volume, ti rigioccare e si riprende. Altrimenti rimane muto. iPhone 2, sì. E vabbè, dai, diciamo che per il prezzo che ho pagato, se no si rivaleva. Sta conta lo bingo la viennante. Luca, non via, Luca. Buonasera a tutti. Franco, ciao Fra, salutone. Buttalo via? Ehi, buttalo via. Ciao Gigi Vulcano, Raffaele sono io. Buonasera, che è lo straniero. Ciao Fra, buonasera. Oh Fra, mica avrà deciso voi il cinghiale, avevo un pronome mi. Poi dentro casa mia, poi dove erano gli altri? Casa d'Italia, adesso a lune sole. Ma io l'avevo detto un video, non mi è fuggito. Alliatura. E allora? Avanti, Gufo, lo senti a questo di sì, dai. A Franco da Sorso. Ciao Franco, ben sentito. Già voglia che lo senti. Ciao Graziano, buonasera. Altrettanto ricambiato, ogni tanto ci affacciamo. E allora? E bello straniero. E allora, cosa mi racconti? Dimmi. Come non sono accettati che hanno arrestato senza motivo? Ehi, vabbè, quello è noi solo a te, noi siamo tutti, purtroppo. Speriamo che passi in fretta. Certo, speriamo sì, che sia in bene. Cavagardo. Un po' di arresti domiciliari già fanno bene, fra. Sì, vabbè, non ci possiamo lamentare, ma va bene così. Avanti Gigi. Mi lascia via la gorgia, ma che mi è andato? Mica faccio un atto di bomba. Ehi, ciao. Ehi, va bene lo stesso. L'importante è che sia una mascherina. Poi non riesco. Però prendo il perigolo. E vai col perigolo. Comunque oggi ho posto un poco di CRC nel mio VD40 che fa miracoli, adesso è a posto, non lo fa più quel cacca. Perfetto. Allora, a me è successo tanti anni fa, ma tanti anni fa, c'avevo un Mobicom, un microfono suo originale, piccolino, quello che c'è l'updown, no? E non usciva di radio, boh. Infatti ho chiesto poi a Antonio, riserva che lui, qualcuno l'ha smanettato, e niente, lì, ma vabbè, non mi ha saputo aiutare perché sono microfoni difettosi. Tu non ci crederai, lui, l'ho spostato, due, non usciva di radio, due spostatine di CRC, VD40, ha ripreso a funzionare con una bellezza. Infatti sto pensando, che ce l'ho le MB40, il microfono suo originale non usciva più di radio, però quel lavoro lì non gliel'ho fatto. Se gli riattacco di nuovo lo spinotto, ci riprovo, risposta un po' di CRC e si riprende meglio di quello che c'è adesso. Per sbaglio che mi è fuggito il microfono alla mano e si è chicciato dalla bordante. Vabbè, comunque mi consigliate OCTR? Ma secondo me va bene quello che c'è, non lo devi duca più, secondo me. Poi se ce l'hai da provare, provalo. Ascolta, facciamo una cosa, siccome io sono di quelli, cazzo, però non ti credo, ci mancherebbe, se vuoi dirgli sì, che se mi fai questa cortesia mi mandi la registrazione prima con questo, col telefono e poi con l'altro, dai, faccio 10 secondi di passaggio e mi fa sentire tutte e due, sono curioso, va. Aspetta che stacco le cuffie, se ti arriva, perché qua c'ho poca linea, aspetta. Ah, ecco, e allora. Vabbè, nel caso costa, se c'è poca linea me lo mandi più tardi, registrami e poi me li mandi, dai, quando c'è linea più alta. Dai. Aspetta, Se è pronto io schiaccio. Vai, dai, attenzione Costanzo, lo straniero, se tu ascolti Luca qua, gabba, gabba. Monta l'altro, dai. Attenzione, Costanzo, lo straniero, se tu ascolti Luca qua, gabba, gabba. Aspetta che esco fuori e te le invio tutte e due. Non c'è bisogno Costa, Mari, sono più tardi, ma le mani, fottitini, dai. Aspetta un attimo. Ok, dai, avanti, Gigino Vulcano. Io con questo qua mi sento più squillante, Gigino. Avanti, Gufo, ci sei. Eia, son qua. Mi sembra più forte il secondo, però, la seconda modulazione. Vabbè, poi dipende dall'apparato. Questo qua è il primo microfono con Gufo. E l'altro è il secondo, quello che ho staccato. Ah, io già ti sento abbastanza... Cara, è forte, non puoi... Però al minimo il volume. Forse mi sono rivide, cioè, vedi? Cos'è, 48 o quello, Luca? No, negativo, questo è... Questo è il Typhoon 2. Lo Luca, era questo, non vi bene, mi sì. Luca! È vero Costa, questo qua diciamo l'altro ha molti acuti, sono gli altri diciamo, questo qua forse è meglio, ragione. piatto sulla parola, proprio su contestardo, va. Avanti Gigi. Allora, vabbè. Rimane, è vero, rimane più bella la motivazione, perché questo qua. E beh, San Tommà, cosa mi dici? No, no, è vero. Si tira giù dito? No, perché, allora, costa, col parlascolta mi sento più potente con l'altro. Parlascolta, non ci puoi fare affidamento sul fatto della modulazione, ti puoi sentire quello che dici, ma non è mai, non corrisponde mai, quasi mai. Che non è reale da quella trasmissione, giusto? Chiava. Gigi, allora lasciamo questo qua e non ne compro neanche costa. Oppure mi compro questo GTE, questo non GTE, un della Midland, quando sta vicino a Massimiliano. Guarda, secondo me se te lo vuoi comprare per averlo lo puoi anche comprare, ma se te lo devi comprare specificatamente per quella radio, secondo me non hai bisogno, poi fai tu, Sì, ho notato, là questo qua c'è la capsula nera, invece quello là, l'altro ha la capsula bianca. Poi c'è anche da dire, no, non è detto che monti il CTE e il CTE vada bene per la tua voce, eh? Io ne ho CTE alle volte su che secondo che radio la metto non va bene. Infatti, ma c'è questo della Midland che mi stavo dicendo, lo vende la GBC. Questo che sto usando adesso è un Midland lo stesso. Bello. Dimmi. Gigi, l'hai provata tu col CTE, con la tua tonalità di voce, bisogna vedere se con la tonalità di Luca si gira bene. Io ieri non gli ho detto niente perché gli hanno detto che andava bene quello, pensavo che i microfoni non avesse altri sinceramente, quindi perlomeno lo stavo ascoltando, lo sentivo abbastanza bene, anche con quello non ho aggiunto nulla. Oh Gigi, il Midland, quello del Midland non dovrebbe andare bene lo stesso, perlomeno. Perché ne ho visto tanti che hanno il microfono Midland, ci hanno, quelli originali. Allora ci sono quelli grigi che stanno facendo adesso, quello nero, nero proprio. Sì, no, quelli non sono dicendo niente, io stavo dicendo quello nero che si usava una volta nelle baracchini vecchi. Molto facile a trovare, Luca. No, vabbè, io ho fatto un giro su eBay, già ci sono. Se costa 30 euro il CTE. Però come ha detto Costanzo prima, bisogna vedere se va bene per la mia voce, capito? Guarda, uno di quei neri del Midland c'ero io, ma solo che non possiamo uscire neanche per provarlo. Ma ne è uno della Midland? Quelli neri, vabbè, io ne ho due, sto qua della Zodiac. Ma sai qual è buono lui? Solo che non c'ho, ho notato che non c'è la capsula dentro. E che ho notato una Claudio, adesso non mi ricordo la marca, c'ho solo le plastiche basse, il PTT. No, io gliel'ho dato Claudio, adesso non mi ricordo che marca è. Ed è buono, quello l'ho messo nel 48, ma guarda, si va benissimo. Falchetto, il Merry si sta dicendo. Con il CTE c'è Midland, c'è Merris, c'è l'Intec, Lafayette, ve ne... Spara, spara, costa, perdonami. Adesso c'ho il microfono che mi ha mandato Leone Valore Rosso, quello della Inter, che te lo faccio sentire. Fa schifo, guarda, sono andato col connettore un attimino e te lo faccio sentire. Oh, magari va bene. Io mi sono ascoltato e fa schifo. Prova a vedere. Proxel. Ma il Proxel è una tessera, dipende sempre. Lo devi, ne devi avere 3 o 4 per provare. Cambiano uno, sono sempre uno diverso dall'altro. Sì. Se te lo so con l'esempio, io ero una tessera, ne aggiungo 3, sono uno diverso dall'altro. Ci guardano per il tuo contatto. E che cazzo? Vedi che sono i tutti vecchi tu. Adesso ci mi devo allontanare. Va bene, dai. Ciao, Cocca. Ciao, Gigi, Graziano e Luca. Ci sentiamo più tardi, magari, dai. Ci devo allontanare, devo fare la luce. Ciao, ciao. Ciao, Fra. Buon proseguo, ci sentiamo. Oh Gigi, sei tutto strappato. E la base è durato, è tutto a tasto ricci. Attacca. È bello carino. Sì, ho raccato il soldato, adesso faccio le connessioni. Caparracci. E io? Tutto a posto. No, non me lo ricordo, comunque gira bene, dai. Si sente già, e quel bip invece cos'è? Il bip originale della radio. Cava cava. Forse lì vuole il capa brioche. E io? Cava. Sì, sì, sta andando. Avanti il brecco. Ti sento un po' basso, ho capito che sia Sassari, ma il controllino qua sì, segnale 1, eh. Non è di una furata per sangue, non la batteria. No, uno che stava sicuramente provando qualche portatile, dai. No, allora Gigi, ho letto che praticamente a Pierfranco gli hanno rubato la batteria dal camion a Olbia. Sì, adesso ti sento, ma il segnale è sempre uguale, eh. Gigi, e qui io come ti sto arrivando? La radio è pulita. È robustito la radio, ma l'eco ce l'hai sempre sotto anche quando parli. Cava. E vabbè, qua ha cambiato poco adesso, poco fa era diverso, insomma. No, già c'è un po' di differenza, Cava cava. Però Gigi, no, c'hai un po' abbandonato, Buongiorno, Gigino Vulcano. Cambio più lungo. E mi sto mettendo a posto la stazione, sto operando, facendo. Sono un po' impacciato, la diascolta. Attaccalo. Sta funzionando, ma cambia microfono. E sembra più cupa di quello che stavi usando prima la radio. Scappa, è un gioco. Allora, vediamo come lì ha cambiato qualcosa. Però appena più schiarita, dai. Così è più schiarita. Vediamo così, un altro stato abbiamo benissimo, no, era solo per una questione di voce. Così è ancora un tempo, dai. Così è ancora un effetto. Capo. E non è più tutta. No, a me vi dia il secondo passaggio che hai fatto. Allora questo qua, vedi un po', questo, questo qua. Capo a Roche. Pensate, allora, se siamo a 743, 126, qua siamo a 126. A me piace più così. Vabbè, vedi, così è solo, se siamo a 126. Ma così è normale, questo è sempre come può essere quello di che sta appunto là, sta veramente sempre aggiuntivo per la cosa. Certo. E se vuol dire che non è per come dice che è tutto che fa bene. Cala, cala. Beh, lui riusciti ci siamo. No, costa, pensavo fosse quella la posizione, dai, lo spinotto invece no. Adesso tocca capire uno spinotto e farmi le connessioni così, se no tocca capire un test, era un casino, dai, perdo più tempo. Ehi, ehi. Oh, questo è... aspetta qua. Positivo, già si vede, si sente dall'eco, ti sta chiamando Lupo Grigio, Gigi. Lupo Grigio di Rocolo. L'hai sentito? Cappazza, Lupo Grillo, ok. Oh, questo gli ho fatto nel pomello, capito? Nel pomello gli ho fatto la regolazione del... no, nel pomello però gliel'ho fatta io. Sì, sì, ma questo c'ha anche più spinta comunque. E vuoi dire, oggi c'ha più modulatore, quello... no, quello c'ha solo 19,89, basta quello... e poi quello è quello che c'è un camion, l'altro è... Cava, cava. Allora, così è quando... come era prima in Romicino. Rimane più zero è come me l'avevamo dato dopo. Caparrocci. Va bene, uno. E così è, poi salendo, ancora l'ho portato ore 15, ma ho detto tutti che ai 15 va benissimo. Sì, sì, va bene, Gigi, va bene. Perché se vado al massimo, ma non è per troppo, così al massimo, capisci, la tonza, non male. No, non mettila com'era. Positivo, poi 15. Comunque, questa è la cosa che ho fatto io, non la cosa che ho potuto fare io. Positivo, dai. Qua, addirittura, tre condensatori, qua, non so che volete, da voi le pensassate. Sì, sono io che sono... No, no, c'è qualcosa sotto. Perché questo mare lo dici. E questo no, ti ricordi che attivo, ti ricordi che una piaggia va, avevo una lezione, è attenziosa, ma avevo una lezione, il tornato era ancora in lezione. La parrocci. Cidiare era tornato. La vagava. Penso con colpa mia di io. Sono stranieri quelli che si sentono sotto. Gira, devo andare da un tecnico a farmi pulire il tuo spinotto, buh. Zero propagazione oggi, eh? Ce n'è. Oggi no, ieri sera ci siamo divertiti. Qua si sta arrugginendo tutta la stazione, si sta arrugginendo. Anche qua si stava arrugginendo tutto, si è lasciato un maghiccio, a bestia e non avevo atteso più nulla, eh? In casa. E poi sì. Chi è costui? Bene anche questo Gigi. Vedi un po' come ho fatto le regolazioni dell'eco, se può andare bene o male, per me sono anche se il suo questo. Va tutto bene. Va bene, allora guarda, abbiamo messo solamente una della scheda, solamente una cosa 63 dai, ecco. E la cosa è bella, cazzo. È tutto a posto di teoria. E a chi è questo qua? Oh, è come l'aria del forte questo. Forse mi sembra che questo non è dovesse forte, solo che questo il tutto non ce l'hai. Sì, esce forte Gigi, bella radio per portarle. Positivo, la cosa è bella allora. Solo che qua lui ancora non è piazzato il senso fermo. Un minuto di bianco che entra in bagno, eh? Positivo, io pensavo di entrare, vado anche io. Tutti a capiccioli, non ti amo. Piccioni. Va bene, dai, io sono tornato. Sì, via, lupo grigio, se sei tu io ti copio, ma sempre basso basso, segnale sempre uno. Il mio QTH è San Camillo. La radio, diciamo, è comprensibile, ma il segnale 1, sempre. Un po' di gente che è rimasta ancora su questa strada, capito? calato molto gli auspici, praticamente sono quasi tutti spariti. E poi con la crisi del lavoro ce ne sono pochi, pochissimi. Anche quella lì ce l'ho nel telefono, no, stavo dicendo che gli autisti hanno calato molto, prima ce n'erano tantissimi, adesso li conti sulle punta delle dita delle mani, da quando è iniziata la crisi, poi che hanno messo a questo CQC, devi sforzare i soldi per tenersi la patente. È sversato un macchino. Purtroppo la tecnologia, logicamente, le radio le hanno tenute poco e niente. Ragazzi preferiscono la tecnologia, capisci? In effetti sembra anche giusto, la tecnologia oggi ce l'abbiamo anche sul telefono, baracchino, dunque, come vedi? Vabbè, come diciamo, come ragazzo ci sono io, sono giovane, non è che sono vecchio, cioè vecchio, oddio. Sono giovane, da 45 anni ancora, eppure sono qua, e non ho computer, ho il telefono di ultima generazione, ho altre cose da fare, però la passione del baracchino c'è sempre. Gianluca ha ragione, però tu sei già vecchietto, 45 anni sei già nella categoria del prossimo giro. Sì, forse gli sugli vuoi io, penso che Malusoia, anzi tutti sono Malusoia. Vabbè, ma sei passato dalla categoria dei giovani alla categoria dei primi vecchietti, diciamo, là. Si conferma, lo straniero riesce a connettere questo coso, buc. Non ci riesci. La portante solo trovo, non lo so cosa è successo. Burruchetta, gli altri riesci, piano piano, rilassa tutti quei minuti e poi riprusi. Bene, sono andato, va amico. E allora sei più giovane di me. Abbassi il break. Quello già è vero. Sì. C'è la passione che la tiene lo stesso, anche se io me ne ho venduto alcune perché ne avevo troppe, già che io ho sempre su questi esami a disposizione. No, solo CD, come radioamatore posso solo ascoltare. Aspetta che sia lo soprammodulato, aspetta l'amico, avanti Romania 3-3, ora attento Romania, se copi Nord Sardegna, città di Sassari, negativo, c'era uno dalla Romania che voleva entrare, riprenditela. Aspetta che che c'è questo della Romania che sta saltando e ti copre. Adesso lo siete di ciao Romania, adesso se n'è andato. Riprendi che ti copriva e non ti capivo cosa dicevi. Se ne prendo anche di più, un modulo, di più modulo, perché in estate è più aperta, capite, e riesce ad arrivare anche molto lontano. Io ho tutto aperto, tutto quanto, però sono all'ultimo piano e poi ho 3 metri di palo e 6 metri di antenna. C'era Luigi e altra compagnia bella, evidentemente si sono assentati, capito? C'era Luca, che Luca è da palazzo, sta modificando il microfono, mi sembra, e ce n'erano poco qua, evidentemente si sono assentati. C'era Gianni, c'era, già ce n'era già, anche io sto facendo cosa. A voglia, già ce n'è, c'è Gio Maria, c'è Luca, primo, Luca secondo, c'è Sole, già ce ne sono già, aspettando una roba su, anche qui vicino a San Bossola, ce ne sono parecchi. Un attimo che mi hanno chiamato e attento l'amico, ripreso fra 5 minuti. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambio. Binario 10, c'è qualcuno. Cava, cava, buonasera, ma ci sono le distanze di sicurezza, se no non ci salgo. Cava, cava, prima ci si arrangiava, sì. Traffico. Italia. Tempi duri. Facevo viaggi in curva, andavo a Porto Torres col treno, anch'io. Però praticamente sembravano quelli del Far West, i treni che c'erano per Porto Torres, anch'io. Avevano i sedili in legno, mamma mia, che brutto. Aggiornati adesso, ma prima se vedevi il treno che andava a sosso ti vedevi le mani stesse. Anche adesso gli aerei siano molto abbordati, già lo sai anche tu, ma te l'hanno rimbalzato poi quel biglietto, sono curioso. Vediamo un po' come si mette la situazione. Oh, yeah. È un casino. Con questa roba, tu devi vedere all'ospedale, io ti dico, non fanno. C'era un dottore senza mascherina, senza nulla, passeggiando. Cioè, fregano gli altri e pure lo fanno loro. Ce ne hanno tutti le mascherine, capito? C'era solo questo, che infatti c'erano quelli ambulanti che hanno portato a me, dove era quello lì? C'è, quello pagherà di sua tasca, sì, ma la fa pagare anche agli altri, infatti è questo. Un deserto, vabbè, io sono andato alle 8, ho fatto la lastra, poi sono salito su in autofferia per fare la visita e alle 9 e mezzo finito. Però negli orari che c'ero io era un montuno. Sai quanti eravamo per la visita in due? In autofferia sai quante persone ci sono solitamente per fare la visita? Sì, però mi ha fatto un po' di osservazione perché sto duplicando, sto prendendo il video di duplicato. Mi ha detto che però devo togliere questo video perché se lo fermo lo porto a mano. Di usare le stampelle perché questa qui è una cosa psicologica. Non avendo praticamente l'equilibrio, tu hai sempre paura di cadere, quindi duplichi. Mentre invece se usi la stampella, e l'ho notato perché ci ho provato per così davvero, se usi la stampella ti senti più sicuro e cammini bene. Tu dagli a mira, dagli a mira. E tu dagli a la ringa. Ciao, grazie. Ciao Gianni, ben sentito. Vai prima, passa da me che tagliamo. No, no, no. Hanno già tagliato quello che dovevano tagliare. Io faccio l'abbondanza, taglio da su. Mi hanno tagliato proprio da su, mi hanno tagliato la testa del femore e mi hanno messo la prutti, gira. Già va bene, portate che su giù. E se no le buone voci ricci. E allora, bene bene, riprenditela. E c'è il lupo vigio, avanti lupo vigio. No, ce ne vogliono due stampelle. Costano solo straniero, ci sei? Oh, già, com'è questo microfono? Vabbè. Attenzione, Gianni, doppio rum, se tu ascolti Luca, qua. Già vabbè, il microfono. Praticamente questo qua è il microfono che mi ha abbinato qua, qua a radio, dai. Ma penso che mi sono ascoltato bene. Che cosa mi ha fatto? Non usciva, aspettavo i fili li mettevo giusti, perché prima la portate e poi il tubo strano, non esci. Praticamente c'erano i fili staccati dalla capsula dentro. Poi io non ho piazzato un colpo, là, non so dove ora, gira che ti gira. Ma lo già esce bene, già abbastanza... Oh. Abbastanza... complessa per la forza. Qua a Costanzo volevo sentire, scusa mi dice. Gigino ci sei, Gigino Vulca. Ecco Gigino, boh. Anche mi sto ascoltando, sembra che sia. Cioè facciamo. Allora, già, allora, metti in conto questa. Ok, 1, 2, 3. Metti in conto questa. Attenzione, io di doppio rumbo, guarda. E metti in conto questa, attenzione, io di doppio rumbo, guarda. Sono diverse, Luca. L'altra, la prima è la più potente che c'è. È proprio quella forte, quella prepotente. Poi. Naturalmente non la puoi usare quando si fa salotto la notte, ecco, quello lì sì, però prova a chiuderlo, a vedere con quel microfono, col primo microfono che usate, a chiudere l'eco, un po' senza eco come. Qua senza eco già, 1, 2, 3, prova, attenzione, già di doppio rumore. È forte anche, è troppo forte. Guarda un po', adesso l'ho abbassata a mezzogiorno, l'ho messo. Diciamo che per 10 va bene. Vabbè, allora rimettiamo come l'ha detto prima, no. Così con l'eco, attenzione, Gianni, doppio rumbo se tu ascolti Luca. Non è che mi puoi fare una registrazione, ma avanti. Guarda, se vuoi un consiglio, questa qua te la lasci così per farti 10. Prendi un'altra per farti... un'altra... l'altro baracchino e lo usi per fare salotto. Tranquillo. Ma l'altro baracchino per il salotto è così di marina, non ho altri. Il Typhoon non va bene già. Ma il Typhoon è il Mobico. No, non ce lo esce bene già, dai. Vabbè, questo qua posso usare così, senza, è normale, non è che ci sia tocco, le vuol bip è normalissimo. Avanti. Senza compressione, è tipo su va. Attenzione Costanzo, lo straniero. Farido è pure vero. Questo 45 stavo. Ciao. Ah, 45 sono. Sono sconto, scusate tutti. Ciao Marino. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Sono sconto solo, vai. Come sono con la Garzia, ciao Garzia, ciao Gianni, c'è anche Nicola. Ok, lo prometto, io non mi ascolto se faccio una cosa, mi prendi già. Ciao Marino, mi sentito anche a te là. Mi stavo mezzo a soffrendo perché stavo facendo un po' di pulizia, mi sono stancato. Se prendete voi che io mi rilascio un po', mi sta addormentando, comunque mi viene la bionda. A dormire la notte sia, però poi... Grazie, io ho dormito, solo che mi sono alzato stamattina alle 6 per andare all'ospedale. Dopo mi sono fatto tutta la casa, spolverato, lavato in terra, pulito i bagni, insomma, mi ho fatto un mazzo di tre non passi. Quindi adesso sono stanco. Ehi, va bene, già fa bene, l'anno di me, cosa vuoi che sia? Grazie, quando hai la gamba operata, ti stanchi prima. Tu la tieni sorvolata, la gamba. Io dovrei stare a riposo e camminare pochissimo, fare molta ginnastica e andiamo a camminare poco. A riposo dovrei stare coricato, muovermi sì, ma non più di tanto. Fare sforzi, non fare molta strada. Non mi tocco mai. Mi vengono tutti i dolori, non mi curico. Gianni, non chiamo il portato, io per te. Cosa c'hai? Cosa c'hai? Ah Gianni, perché ho dolore, lui non può fare anche l'amore, eh. Ok, scusate, così mi... grazie. Mari, ma perché stai scendo così male? Certo, mi controllo tutto, non mi sta accorto questo. Abbassa, abbassa, che stai scendo per male. In effetti non ho copiato una parola di cosa ti vuoi. Mari, guardati quella radio. Non si controlla. Tutto tanto, una parola cosa lì, un po' grigio ancora ci sei. Sì, appena più basso ma già terriceto là e via. E allora adesso attrezzati bene di antenna sul tetto e vedrai moduli là dentro casa se sono uscite fuori. Lo fa, va bene, io già dormo poco, massimo 3 ore. E poi sono sempre sveglio, però a letto non ci rimango mai. Me ne vado in cucina, mi accendo la TV e niente. Ehi, vedo io giro un sacco di canali, ci sono un sacco di canali, guardo film, documentari, queste cose così. Cosa ma poca roba. Anche io faccio così, che ho anch'io il computer, ogni tanto lo accendo. Adesso sono un mezzetto che non ho più acceso. Ogni tanto quando mi sale già lo accendo e guardo un sacco di cose, capito? Ah, pure quello però mi ha anche stufato. Guarda, dopo bisogna rimanerci per vedere se riesce a debellare questo virus. Per il sicuro conviene rimanerci. E vabbè, già ci riusciremo. Piano piano, già passano le giornate. Certo che molta gente anche alla fa da lei, infatti alla TV già l'ha fatto vedere, stavano assalendo i supermercati, la gente senza studi, è un casino. Fatto la legge così, però non pensano a chi si lavora la giornata e a chi se la cerca una giornata per poter mangiare. E non si pensano a quella gente. Adesso se ne sono accorti, adesso che stavano salendo il supermercato. E si continua così per ver succede una rivoluzione. A chi la gente ha fatto, non ha niente, di là non ha, a ricciare. E logicamente uno cosa fa? Fa rubare, no? Registrato il prezzo, avanti, sì, stai arrivando abbastanza bene, però c'è un sacco di QRM, adesso non so se te lo trascini tu o se... ok, barracuda, va bene. Eia, un po' solo, ringraziamo, in compagnia di Lupo Grigio, che anche Luca, Eia, ricambiato al centro, Lupo Grigio, ancora che sì. E adesso non mi ricordo di preciso da dove, Barracuda, non mi ricordo benissimo da dove stavamo là. Non me la metto, perché si sta rimettendo a posto la stazione, capito? E si trascinava presso un po' di QRM. Da Ossi, da qua, da Ossi. Ah, da Ossi, da Ossi, ecco, il pubblico. Se te l'antennino non te la fai a prendere in quel posto dove sei tu. Non so cosa, non so se ha visto. C'è il Lupo Grigio e c'è più. Poi gli altri non lo so se sono nato. Via, bene veda. Ho sentito, c'era qualcuno su 45, mi era sembrato Gigi Vulcano con Massimo Bulldozer e poi non so se c'era anche Costanzo, boh, comunque sono passato poco fa e li ho sentiti che erano su 45. Ascolta Grazia, fammi una cortesia, come ti sta arrivando da te? Una bomboletta, bene bene, chiaro, l'insignorissimo. Bene bene, anche tu forte, forte e chiaro, proprio abbondante. Ehi, no, sono a Radio Lina Vecchia, vecchio Washington, solo AM addirittura. Ehi, no, già esce bene, grazie, la radio è proprio chiarissima, bella, come piace a me. E niente, dai, ultimo per la truppa, come dice Claudio. Avanti, Nico. Ehi, ehi, ascolta, per quanto riguarda Fusaro, credo che sia aperto, credo che sia aperto perché fa parte di quegli esercizi, a meno che non abbiano deciso di chiudere loro, credo che facciano parte di quegli esercizi di forniture di materiale elettronico e insomma, dovrebbero essere aperti. Ti sei guardato un apparecchio e stai nella compagnia di ricambi. Eh beh certo, voglio dire, dovrebbe essere aperto, e comunque voglio dire, stai andando a comprare un materiale elettronico che ti serve, cioè, quindi risulta come materiale necessario, quindi non vedo questo problema. Ok, guarda, per quello che so, poi ho sentito basso Barracuda da Ussi, ha detto che ha comprato il trimmer per il Galaxy, quindi deduco che sia aperto, cioè mi ha dato la conferma. Va bene, dai, avanti, grazie. Ehi, beh, sicuramente è aperto, però se è difficile di avere appresso quel pugno che devi portare appresso, gli devi dare una motivazione valida, perché sono diventati lunghi, perché si informano se veramente stai andando là, se non sappiamo fanno la multa. Conviene uscire sicuro, là, se poi era il momento ti arrangi così, è meglio che ti arrangi così tanto per non rischiare, quindi tanto, capito? Se ne puoi fare a meno, per adesso, io non sarei uscito, capito? A meno che non te lo ordini tramite internet e te lo portano fino a casa al corriere. Grazie. Marziano? Magari ti ho spostato un attimo. Per quell'antenna li investi con alcuni metri di cavo, due spinotti e poi qua di antenne in ruota già ce ne sono, quindi ti conviene investire in quella maniera, guarda, secondo me sono soldi buttati. Ho capito. Però io fossi stato in te avrei investito quei soldi e avrei preso del capo spinotti e poi l'antenna qua in ruota già si trova. Io ne ho una, per esempio, te l'ho già detto l'altra volta, c'è una PLC 800 della Sigma, una veicolare alta 1,70 m, ma c'è anche altra gente che ce l'ha qua, un'antenna da mettere in terrazzo, figo, c'è anche Claudio, te l'ha detto anche lui. Un conto è avere la possibilità di scegliere se stare in casa, un conto è essere obbligati, cioè obbligati, invitati in maniera un po' troppo, come si dice, non trovo il termine giusto, dai, comunque, ritornando al discorso di prima, sono sempre degli accrocchi, Nico, quelle cose lì, le trovo sempre delle cose posticce, poi per carità uno dei propri soldi ne fa quello che vuole. Guarda, io prima di avere l'antenna boomerang, avevo l'antenna di macchina piazzata su un palo sul tetto e con l'altra vecchia radio e arrivavo a Porta Torres con quell'antenna lì, con 4 watt, quindi figurati. Sì, guarda, io ti ripeto, nella configurazione precedente mi facevo sentire da tutti qua, con quell'antenna lì, con quel vecchio apparato da 4 watt degli anni 70, e mi facevo sentire da tutti, e anche bene, dai. Quindi ti posso garantire che una volta sistemata anche una veicolare, messa bene, Sassari ti sente tutta, dai. Beh. Registrato. Ok, Nico. Sì, ciao, buonasera Roberto, da questa parte. Ciao Nicola e ciao Gianni. Vediamo un po', c'è qualche altro oltre a voi due? C'era Graziano, ma evidentemente si è spostato un attimo. Magari gli ha squillato il telefono, boh, o qualche altra faccenda di casa. Per il momento eravamo in tre, adesso siamo in tre, visto che sei entrato tu avanti. Ehi, dai, discussione c'è, di cosa, basta che non si parli di nuovo di coronavirus, se ne sono stanco. No, stavo dicendo a Nicola che io Precedentemente, prima di montare la boomerang, avevo, ce l'ho qua a casa smontata, una PLC 800 della Sigma con un vecchio baracchino giapponese con 4 watt, e a Sassari mi sentivano tutti, capito? Gli stavo ricordando solamente quello, e infatti, perché lui poco fa stava tirando fuori il discorso di quelle antenne a nastro srotolabili, insomma, gli ho detto risparmiati i soldi, ti compri un BNC, un PL, e stai andando con quell'antenna lì. Sì, un'antennina già va bene, ma cioè, poi ci sono, Nico, quelle mini Grand Prix, che sono piccoline le antenne, hanno più o meno 80 cm di apertura, sono da un quarto d'onda, 75 cm mi sembra, e ti posso dire, io giù a Platamona, quando andavo giù a Platamona alla casa, mi sentivano benissimo a Sassari, e vabbè, poi ho messo un'antenna di quelle filari, ho fatto una con la canna da pesca, da 2,75 m di braccio, quella era ancora meglio, andava meglio le cose, stazionarie bassissime, posso dire andava alla grande. Ti prendo una mini Grand Prix, quella piccolina con i fili in coso, gli elementi in resina, insomma, sono cortissimi, e la metti sul davanzale, sul terrazzino, se c'è una ringhiera, gli fa una taffettina e vedi che funziona più che bene. Allora, aspetta un attimino, non confondiamo, perché lui c'ha anche le antenne VHF, quelle che ho visto in esposizione sono quelle VHF marine, e ce l'aveva, come si chiama, tempo fa, io l'ho preso, stiamo parlando di una quindicina d'anni fa, beh, buoni che l'ho comprata con l'antennina, e non so se ce l'abbia ancora in esposizione, sinceramente non ci ho fatto caso, però ho visto che c'ha un sacco di roba nautica, mi immagino che sia utilizzabile per le questioni nautiche, perché più o meno la lunghezza di quella VHF marina è più o meno come quella che utilizzavo io qua a venire per il Grand Plain. Allora, c'era la Melchiori Elettronica, all'epoca era la numero uno, specializzata anche su baracchini, aveva un sacco di roba, poi aveva mezzo chiuso, poi l'avevano riaperta, io sinceramente c'era un qualche anno che non ci vado più, perché era tutto ad esaurimento, non so se attualmente sia ancora operativa, perché c'è stato anche l'altro giorno su internet, però non ho visto niente di nulla, di pubblicità, di nulla. Guarda, la mini Grand Plain, il piantone dove attaccano i radialini, ci sono quattro radialini verso il basso, diciamo il piano di massa, e qui c'è quello verticale. All'interno, la parte centrale del piantone, diciamo la parte presoffusa, è filettato. Di lì esiste una specie di filettatura, diciamo un pistone, dai, che lo metti dentro lo filetti, e sotto c'è una zampa che stringe, la parte è esattamente a ringhiera o in un paletto, dove vuoi tu, e puoi far passare il cavo in mezzo e non hai nessun problema. Ma è un'antenna poco ingombrante, per cui non è che ti dà molto fastidio, la puoi lasciare anche fissa, la metti nel terrazzino se c'è una ringhiera o qualche punto di fissaggio, poi li fissi un faro, un palettino piccolino se vuoi, o la fissi direttamente alla ringhiera, vedi tu, conviene anche metterci un palettino e non sballi, perché tanto è predisposta per mettere un paletto leggero, di quelli piccolini da un metro li metti, tanto non ha bisogno di grande super, cioè non c'è bisogno di alzarla tanto, con la bubola forse è necessario, se c'è quelle dimensioni, metterla un po' distante da terra. E gli stili sono più o meno 75 cm, una cosa del genere, e ti posso dire, a livello locale va più che bene, ti togli soddisfazione. Io l'ho utilizzata per qualche mesetto, dai, 7-8 mesi, e ti posso dire, mi ascoltavano da tutte le parti. Ma poi guarda, io posso farti anche un confronto adesso. No, vabbè, non te lo posso fare adesso, perché io ho un'altra multibanda, diciamo, larga banda, un'antenna larga banda che la uso sui ricevitori, e ti posso dire il segnale da 9 passa a 9,20 rispetto alla Mantova, cioè la Mantova 9,20 è quella 9, un segnale di 9, per cui in città ti ascoltano tutti, tutti le vedete qua da me, sei già 9 abbondante, Nicola, per cui se metti quella lì arriverai 9,20, 9,25 sicuramente, quelli che magari ti ascoltano 7 passerai a 9, a livello locale andrai bene, Porto Torres magari non arriverai a 9, arriverai a 7, però ti ascolteranno comunque, perché tu sei aperto, di lì non hai ostacolo. Ragazzi, saluto a tutti, saluti circolari, sto chiudendo, alla prossima, ciao ciao a tutti. Ciao Graziano, ben sentito, grazie alla chiacchierata, dai, alle prossime. Sì, riprendo. Ciao Graziano, ti ho sentito di sfuggita, comunque ben sentito, ciao ciao alle prossime. Ciao ciao. Graziano, com'era? Buffo triste, così? Ehi, ehi, già è lui. Qualche volta loro stavano sull'altro canale, mi sembra sul 23, mi sembra Gio Maria e altre, diciamo, sono dei vecchi CB molto, molto, molto più anziani di noi, diciamo, di vecchia scuola, dai. Un palettino con delle fascette in plastica, le prendi e le porti direttamente, tanto i radialini sono avvitati, è un attimino svitale, sono delle filettature passo da 6, le sviti e lo porti direttamente dentro casa, ti fai una struttura in modo che ti venga bene smontarla e appoggiarla. Sì, per legge non puoi superare i 4 watt, c'è il vantaggio che c'è un microfono separato, anziché stare con questo apparecchietto in mano, un po' più maneggevole, diciamo, utilizzarlo così. Io ti ripeto, ho utilizzato all'inizio, c'avevo un Intech piccolino, 40 canali proprio senza niente, c'aveva soltanto lo squelch e il cambio canali con i canali digitali e basta, non aveva né smitter né nulla, però piano piano ho iniziato, di lì c'aveva l'antenna removibile, mi collegavo alla Grand Play, poi subito dopo qualche mese mi hanno regalato una alla 48, l'ho tenuto per un pochino e poi ho preso una stazione base con alimentatore interno, perché a me non piacciono le radio con il col coso, col come si chiama, col i veicolari, dai, col programma microfono palmare, proprio io sono contrario, guai, non mi sono mai piaciuto, io sempre mi scrivo microfono a tavola, infatti ne ho una marea, ne avrò una pudicina di microfoni per ogni radio, nell'alla 48 l'ho tenuto un M93 preamplificato perché funziona va benissimo, ma tutte le altre radio hanno microfoni dai Turner alla Static eccetera eccetera, SBE eccetera, ci sono tantissimi microfoni, però è sempre stazioni base, a me non piacciono questi veicolari, ci metti il cavo d'antenna, siccome io ho cavi grossi come li muovi, li giri eccetera, c'ho un commutatore antenna, sono tutti cablati, giro e vado. Allora, ci sono degli apparati, allora il mio patch è predisposto anche a funzionare a 12 volte, infatti c'ha un cavetto esterno predisposto, ce ne sono qualcuno, ma la maggior parte hanno l'alimentatore interno, non è molto fattibile, diciamo un apparato HF, per dire il 440 e il 640, tutti quegli apparati di quella serie lì funzionano a 12 volt con l'alimentatore esterno, ma sono già apparati più grossi, possono funzionare a 12 volt, li puoi portare teoricamente anche in macchina, però questi apparati, quelli grossi, quelli diciamo di vecchia generazione, la maggior parte hanno alimentazione solo a 12 volt, a 220, a meno che non hai fatto un'alimentazione predisposta a 12 volt, io ne ho uno di questi bar. base, un vecchio patch degli anni 80, quello c'è anche la possibilità di funzionare a 12 volt, però è stata fatta una modifica, diciamo, dal trasformatore interno esce un cavo e lo fai funzionare a 12 volt. Però sinceramente non me ne frega niente, per dire, portiamo una stazione così grossa dentro la macchina, non fa niente, a quel punto ti porti un veicolare piccolino. No, se manca la corrente, se c'è uno di quei palmari che hanno le batterie incorporate, ci sono quelli con gli accumulatori ricaricabili, oppure con le batterie magari li metti a potenza minima a 1 watt perché ha piena potenza, perché sennò dopo 10 minuti la butti giù la batteria. E in emergenza puoi andare. Certi ricevitori che io, infatti, in emergenza li faccio funzionare anche a 12 volt, ma grazie a Dio raramente manca la luce. Ok, quando sei pronto, allora ti prendete questo passaggio, sei 9 più 5, avanti con l'altro, scusa un attimo, è Gianni che stiamo facendo questa prova e poi ti rilancio a te. 5 punti prendi, e da 9, 5 passi a 9, diciamo 9, quasi 9, dai, diciamo 9, un pochettino meno di 9, ma diciamo quasi niente, ti prendete per avere le grosse differenze, devi passare da 1 a 50, così te ne accorgi la differenza, però se c'è 1 o 4 watt quasi niente. Io ti dicevo 9 più, un dettaglio, abbiamo già fatto questa prova in passato, non so se rammenti, quando passi a 2 watt la radio è leggermente più alta, non so se Roberto ha notato la differenza. Sinceramente non me ne sono accorto, possiamo vedere, ma mi sembra un po' strano. Avanti, riprova, e magari si avvicina un po' di più al mic, dai, diciamo queste prove si fanno con apparati con un microfono da base, utilizzando il coso così non è molto affidabile al discorso. No, ma fammi le due prove, fai 2 watt, parla e poi mi dice adesso sono 4 watt. No, da parte mia non ho guardato strumentalmente, però a orecchio sembrerebbe la stessa cosa. Se vuoi la certezza assoluta devo attaccare la strumentazione e te lo dico, ma è una cosa impercettibile se c'è almeno. Ma io ti sto ascoltando con un altro parlante esterno di qualità pure, ma non ho notato differenze a orecchio. Ehi, no Robert, io la sento la differenza. Se no non mi sarei espresso. Io ho una piccola differenza, la sento di radio. Con 2 watt lo sento più presente, più forte, leggermente più forte. Con 4 watt si abbassa un cc. Comunque la differenza io la percepisco. Gigino, c'è qualcuno sul binario di... Aspetta un attimo Luca, che c'è qualcuno. Gigino, sei tu che chiedi un controllo. Ah, scusa Antonio, allora il segnale è 9 più 5, la radio 5 non è tanto forte, però comprensibile. Ma guarda, io sinceramente se l'apparato sta andando bene non lo toccare. Quello ti apre un po', ti allarga un po' la banda, però c'è di ciò che magari che disturbi. Io sinceramente li lascerei tu stare, perché con quello tu aumenti l'amplificazione dell'apparato, lo stadio di preamplificazione, ti aumenta un po' il coso, la radio, però ti crea altri problemi. Siccome sono tarati per rimanere entro i limiti di legge, diciamo, della deviazione di frequenza, eccetera, eccetera, lì ti stai allargando la banda passante, però allo stesso tempo ti puoi creare dei disturbi se magari aumenti troppo la potenza. Sì, sì, no, lo stai usando bene, discretamente, dai. No, quello che voglio dire è che questi parametri vanno regolati con dei valori di fabbrica, diciamo, con degli strumenti, eccetera, eccetera. Non è che li fai a orecchio. Tu mi dici adesso stai uscendo bene, magari a orecchio puoi anche dire adesso sta uscendo meglio, però magari stai creando delle spurie, delle armoniche e magari disturbi, vai di splatter sui canali adiacenti, non lo so. Queste cose vanno fatte strumentalmente. Però adesso per quello che dico qua io, che ti posso ascoltare, sta andando più che bene, dai, non posso dire niente. Ok, avanti Luca, scusami un attimo, sono entrato, avanti. Volevo sapere come va la mia radio, va bene? Sì, è abbastanza forte, ma che cos'è? Metti sulla portante, scusa. Allora, la marcia, ecco, so. Vabbè, ecco, ci ho chiuso, sono rimasto, a fondo rimane sempre. Non so se vuoi abbassa un po', ma chi vuole un po'? prova, la prova. No, la radio già è forte, però la sento troppo macchinosa, troppo rumorosa, non è... La radio è bella fino a un certo punto, nel senso un po', sembra un po' in distorsione. Non è la tua però detto sempre era un punto di riferimento di qua, dei baracchini, era la, per me una delle più belle in assoluto, però queste qua fanno troppo, sembra una cosa così. Vabbè, tipo, ma anch'io sto parlando un po' così, perché se parlo normale già va bene, dai. Sì, certo, dai, quando vuoi entra, segui i controlli, te li do quando le necessità, no, da parte mia non ci sono problemi. Luca, ma non è la solita tua? No, è quella modificata. Ciao Antone, mi senti? Ma quello cos'è? Sì, è importante. No, ma Antone, una domanda, ma che microfono stai utilizzando? Sì, no, infatti stavo dicendo, no, se fosse stato amplificato magari non stavi andando, no, allora sta andando discretamente, dai, non c'è problema. Adesso io direi, visto che abbiamo un po' monopolizzato, almeno io, rifacciamo riprendere un attimino a Nicola, che è quello in condizioni un po' più disagiate, che farà passare il mic a Gianni Ubrofetta. Avanti Nicola. Ok, va benissimo, è sempre un piacere ascoltarti. Nicola, ti rilancio per Luca, che poi farà andare a Gianni. Cappa, ciao Nicola, dai, salutoni, buonasera, buon tutto, alle prossime, avanti Gianni. Ehi, ciao Luca, buonasera, Nicola, alla prossima, già siamo, questa volta è sempre aperto qua, ok, buona serata e alla prossima. Avanti, Robè. C'è tanto il radio che c'hai. Ma tu hai sollevato qualcosa, Gianni? No, negativo. È tutto come sempre. L'unica cosa che ho fatto un paio di giorni fa, ho cambiato la batteria del microfono. No, spinge parecchio per la radio. Vabbè, forse probabilmente perché facciamo il confronto con Nicola. Nicola c'ha una radio bassina, anche se è molto chiara. Però la tua spacca le orecchie, anche quella di Luca, Burudrupu. Prova tu un attimino, Luca, che sto facendo i confronti a livello di modulazione, che è più forte. Boh, non c'è dubbio. Sì, ci sono, no, stavo ascoltando la regolazione, guarda, sta roba. Lo so, non è a tutti che piace, a Gianni sicuro gli piace, va. Stiamo regolando, vai. Ma questa è una registrazione, lui? Sì, abbiamo fatto le prove. Ma la uso così, me la uso qua, normale, dai. Senza ecco. Poi quando ci sono i collegamenti la faccio pompare. Comunque sei leggermente troppo alto, Luca. Se vuoi essere pignolo, devi abbassare un peluzzino. Ti stavo ascoltando, adesso guardando con l'indicatore, c'hai appena sei leggermente sul rosso. Guarda un po', Robert, adesso l'ho abbassato un po'. Prova, 1, 2, 3, prova. Così va molto meglio, dai. Che microfono sta utilizzando? Normale. Normale, cazzo. Sì, e beh, tutta la scheda fa, capito. No, già va bene, dai. Andava, peccato c'è questo grafo sopra, e la vernice è martellata. Adesso vediamo un po', devo verniciarmi anche l'altro di nuovo, fa schifo, perché l'avevo fatta a bomboletta, ma una cagata, dai. Adesso vediamo un po'. No, a me piace la cosa nuova, no, cioè, vabbè, la mascherina è un po' graffiata, non me ne frega niente, tanto non si può fare niente la mascherina, ma non che si vernice anche quella. Basta carteggiarlo bene, gli dai una mano a velatura, non avere mai fretta quando usi la bomboletta, gli dai una velatura leggera, cerca di essere uniforme come distanza e come movimenti, prima una velatura leggera, e poi ne abbiamo un'altra mano dopo, ma sempre compatta, se no dice una gaggada. C'è uno in officina, se lo vedi verniciare la bomboletta, molte volte ci capita di andare in mezzi industriali, cose così, quando devi fare scavatori, cose del genere, cacca bomboletta ti metti mai a testa, infatti me l'ha insegnato lui, mi ha fatto vedere come si fa, è una velatura leggera, non troppo vicino, ottenendo sempre la distanza uniforme, magari ti fa una prova così, vedi come c'è la mano tu di coso, magari ti metti un pezzo di una tavola di legno, qualcosa, e vedi più o meno come difende, e poi perché ogni bomboletta può cambiare, ci può avere più pressione, se la fai contro la pressione invece tutto a mance, e invece io faccio tutto al contrario. Ehi, vabbè, dai, comunque me la compro, ma prima bisogna dargli il fondo, perché se lo porti a solo gli dai il fondo prima. Sì, è bene, esatto, ma lo vendono anche il fondo in bomboletta sulla pedacicazione alla nitro, nitro sintetici, una mano di quello compatta, deve poi dare anche abbondante, se poi ce n'è più non succede niente, deve dare una carteggiata leggera a 320 a secco prima di verniciarlo, in modo che ti toglie un po' con la buccia d'arancia, e poi gli dà una lavoratura leggera del colore, se è nero o quello che vuoi fare, e la mano sopra e vedi, io ho visto dei bei lavori bellissimi. Dai, diciamo che dalla sera non c'è bisogno di andare a carrozziere, dai. Ma se ti metti, Luca, uno, io ho visto dei bei lavori, ho visto anche moto fatte a bomboletta col trasparente, e poi ti posso dire, è un bel lavoro. Sì, vabbè, non escono mai come li fa un carrozziere. Avanti, Eugenio. Da oggi siamo ufficialmente agli arresti, no, in corso di 10 anni. Siamo iniziati a misura, io ho fatto il cosa vuol dire la sera che non partecipa? La sirena però è bloccata. E cioè cosa vuol dire bloccata? Qualche problema? Eh sì, lui c'è la sirena, è stato con carica, non fa neanche la sirena, fa per il rotore, siamo bloccati. E scusa, le merci da dove arriva? Questa è una cosa grave, io quello che temevo, non tanto il coronavirus, tanto se ti biglia o no non dipende da noi, ma cacchio se rimango senza mangiare, quello che mi preoccupa, che poi devi andare a farti la scorta e vai al supermercato e succede come le mascherine, non trovi roba da mangiare. Vai Gianni per un... Ehi, ciao genio, interruzione di pubblico servizio, ed è gravissimo. Allora, purtroppo noi in Sardegna non abbiamo niente, non abbiamo industrie, qualcuno è convinto che ci dà da mangiare il turismo è in minima parte. E tutto quanto dobbiamo importare, tutto, la produzione agricola ormai è tutta morta, che non ci va nessuno, e che vogliamo fare? Magari 30 anni fa c'era ancora l'agricoltura, produceva qualcosa, adesso più che formaggi e latte non produciamo, tutto il resto, l'agricoltura è tutto importata, raramente mi forse qualche mandarino e qualche arancio, ma a livello locale, perché se per tutta la Sardegna non va, ecco. Registrato. Ciao, buonasera a tutti, dai, Massimiliano a questo. Ciao Massimiliano, ma non sento più a Gianni Rubroffetta. Gianni, ci sono qua? Ehi, sono qua. Ehi, c'è, allora Massimiliano, ci sono io, Roberto, Luca, c'era, non so se c'è ancora, come si chiama? Eugenio e Gianni Rubroffetta, non so se ci sia qualcun altro, io lasciamo un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno, se no riprendi tu Massimiliano. Nuda, vai Massimiliano. Ehi, no, saluto Eugenio, saluto a Gianni, saluto a Roberto, saluto a te, perché tu hai detto ci sono io, Roberto, quindi siete in due, no? Luca mi sembra, così mi hai detto. Sono io Roberto comunque, per non sbagliare. Sì, c'è anche... infatti tu hai detto ci sono io, c'è Roberto. Va bene, là. Ok, vai oggi. Stiamo dicendo che siamo sequestrati. Fai un replay. Speriamo che la prima di non si chiede, perché se no siamo fuori, siamo penati fuori. Se no la si chiede. In che senso questa cosa però? Fammi capire. Stiamo buttando la chiesa. Vabbè, siamo bloccati qua a Porto Torres, ma credo che Olbia arrivi qualcosa. Sono Tirreni a fa qua. Sì, e Grimaldi, però Grimaldi è così, forse bloccano anche quella. E noi rimaniamo liberi di Ravanca. E quando mi sta chiamando mia moglie, riprendi Gianni il profeta. Eia. Vabbè, comunque, per i fatti pubblici che su chi è, qua c'è un reato gravissimo, è quello di interruzione del pubblico servizio. E questa cosa è gravissima, poi soprattutto in una situazione del genere, quindi nessuno si... proprio a ragion veduta, non ho, certe cose non, sono gravissime, non ho, è allucinante, non ci sono cazzi, qua c'è, boh, non ho parole, dai. Era per quello che stavo dicendo io, mi hai anticipato tu, per problemi di coso, di Dinà ha bloccato perché sono scadute le concessioni e non ha pagato. Quello è un furbazione, quello non è un pezzo di biglietto in quel posto, dai, non diciamo altro. Comunque ci sono anche le sardine a ferie, se non navigano quelle lì, con le navi cargo. Le sardine a ferie, cioè, o Corsica a ferie, se non navigano come commerciali. Sì, però sono per la Corsica, noi sappiamo per la Corsica, non per l'Italia, non c'è. Non fanno anche coso, scarico di coso, da Genova, non vanno a Genova, Piombino, Livorno, questo. Vabbè. E non ce ne sono altri di armatori che ci hanno mandati per portare sardine? Sì, c'è a volte, c'è sardine, c'è le buche, c'è i rimani, e adesso bisogna vedere un po' come si evolve la situazione. Comunque la Tirrenia è bloccata, sono venuti carabinieri in Sicilia, al Buon Fratelloni, c'era una fila di gente che doveva partire gli ufficiali di Tirrenia. Che merda di storia. Io ho un amico che lui viaggia adesso a Genova, viene tutti gli anni qua in Sardegna, si fa un mese che c'ha la casa qua a Frattamona, di Genova lui, ha già fatto i biglietti a febbraio proprio per avere un prezzo basso, ha pagato 800 euro, lui, la moglie e la macchina, andata e ritorno, una cifra assurda, se no avrebbe pagato intorno ai 1300 euro. Sono quelli truffaldini, cazzo, armatori truffaldini che poi fanno tutti gli scambi di gioco delle tre carte, come dice qualcuno, dai. E però, poi chi ci rimette sempre il personale, i dipendenti e tutto, loro falliscono, poi magari date una sovvenzione altri 200-300 milioni di euro, riaprono, poi tornano a fallire come aveva fatto certe altre aziende, l'Alitalia, cosa del genere. Purtroppo queste cose non bisogna mai darle a privati, soprattutto quando sono beni così importanti di necessità e strutture che servono per la popolazione per muoversi, visto che noi siamo isolati, cazzo, li danno a questi qua che sparano delle cifre fuori dal mercato. Dovremmo affittare la barca di Abramovic, qualche yacht di quelli lì, se dobbiamo andare a Genova e ci arrangiamo con quelle, tanto sono piccoline quelle, quelli mega yacht. Avanti Luca, ci sono Gianni, ci sono. Eia. Sì, d'accordissimo con tutto il discorso, non voglio mettere in dubbio niente, comunque che ci siano buffi, queste quelle inadempienze, quello è indiscutibile. La cosa gravissima è che c'è un'interruzione pubblico servizio, ed è gravissimo, è una cosa gravissima, cioè che poi ci siano, ti ripeto, altre questioni legali che giustamente saranno giudicate in altre sedi. Comunque qua c'è un reato gravissimo, che è interruzione pubblico servizio. Non si arricchirebbe a mania? No. Ma li requisiscono le navi, adesso le prende in mano l'esercito, la vide e ritorna tutto come prima. Adesso siamo furbi, siamo venuti a fare la macchina, la regione Sardegna con la Ma scusa, una domanda, scusate se le fa. Oggi quante navi c'ha che navigano in tutto da Porto Torres a Genova? Quante sono le navi? No, no, non mi sono spiegato. Allora, la Tirrenia non penso che abbia solo una cosa, una motonave, ne avrà due o tre per fare il tragitto. Sono due, no, pensavo ne avesse di più da Porto Torres e Genova, per dire una di scorta, una per dire quando c'è la stagione estiva che c'è più traffico. No, è solo una. E coso, ma c'è anche, non altro c'è anche la mobile, non è roba sua. La mobile ha fallito, ma non c'è più perché le navi mobili non esistono più. Io non so come fa a fallire una compagnia di navigazione come la Tirrenia con tutto il giro di cose. Dice che in Sardegna a Porto Torres hanno trasportato questa stagione, la passata, 3 milioni di passeggeri, con tutto l'incasso che perché costano cifre fuori mercato. Come cacchio fa a fallire una cosa? Era sempre piena, una dietro l'altra navigavano le navi sempre a pieno carico. Come fa a fallire? Grazie a giro strano, beh. Ma poi l'offratto gli dava anche dei contributi, cioè non devi dire come si chiama, oltre i prezzi dei biglietti, per dire io ti do 50, non so, milioni di euro, che tu che gli dava a titolo di cosa, di ricompensa, perché dice sta facendo la continuità, eccetera, eccetera. Il gasolio, quello è gasolio nautico, che vabbè, l'ha fatta pesante, ma è proprio gasolio, te lo danno a prezzo di regalo a Giumma. Ma lo immagino. Ok, vai Massimo di a posizione, vabbè io non me ne intendo molto di far roba. Vediamo un po' se c'è Luca. Luca, ci sei? Sì, sono qua. Gappa. Va bene. Ti sento un bel forte. Prova. No, ho abbassato Massimiliano, ho abbassato un bel, Roberto dice, ma dovrò anche troppo alto. Per fare QSO locale, dai. Cazzo, così è bella la radio comunque. Va bene, sì. Sì, per me va bene, non so gli altri come ti ascoltano, ma qua c'è una bomboletta. E infatti la lascio così, così non disturba nessuno, dai. Avevo anche il bipto. No, a voi. No, a me dire molta gente dà fastidio, dai. L'altra cosa, non la porto neanche qua l'altra, cosa stava smonta, apri, monta, o... E l'una da una parte, una dall'altra. Io ti ascolto bene, ascolto molto bene. Cosa Massimiliano? Ho detto te ne lasci una da una parte e una dall'altra. Infatti l'altra rimane là. Ah, questa va bene, vuol dire non stai con questa radio andando e tornando. Segnale 9, pieno, la radio Super 5. Michi King come ce l'hai? A metà? No, meno della metà. Figurati, grazie di la radio. E lasciamo così, dai, almeno. Poi quando... mi farò un giro domani per cercare questo... mi basta anche un 747, a me non me ne frega niente. Poi facciamo tutte le prove, cioè, ovviamente lo devi accoppiare bene, altrimenti vai danno. Anche un B300, va bene. Ma come lo alimento? C'è un 30, un 25 ampere? Sì, alla porta. Come? Che radio stai usando? Sempre la stessa, l'iPhone 2. No, tipo il Tornado 4500 nero, dai, c'ha 2, 4, 2, c'ha manopola, vabbè, la manopola dei canali, poi c'ha altre 6 manopole. Qui tre sono doppie, dai, perché c'è lo squelch, c'è la regolazione dell'eco, poi c'è l'altro pomello per il coso per misurare le stazionarie, però lì ci sono i watt, poi il pomello dei canali, delle bande e il pomello del AM, FM, che balla. E si confermi, avanti, numero 3. Ah, aspetta un attimino Massimiliano, io buona prova no, che aspetta. No, qua 1-1 Massimiliano stazionari, guarda, modulare 1-1. Forse magari nei canali bassi ne hai di meno, e nei canali alti ne hai un pochino di più. Dovrò regolare la spirale? Sì. Verso basso? Verso l'alto, devi alzarlo un pochino. Un casino di antenna. e adesso vediamo appena il tempo è buono, tanto sicuro il palo che va innesto nell'antenna, si vede, vuole tutto ruggito, sarà della mattana a levarlo fuori. Vabbè, lo faremo con calma, dai, perché è stato verniciato con la vernice quella zinco, ma non ha fatto nulla, ha fatto una gaggata. Vabbè, riprendi Roberto. No, da sta spiegando, spinge parecchio anche Cosmo. E Eugenio, considerando che il segnale è molto più basso dei vostri, ma certo la radio è potentissima. Anche Vanni, Gianni e Brofetta, tutti e due ci avete molto forte, anzi sono leggermente più forte del normale. A te ti ho fatto abbassare un pochettino Luca. Loro hanno il rosso fisso come modulazione. Ehi, allora io ho guardato tutte le radio, le modulazioni di tutti quanti. Luca era sul rosso fisso, quando è rosso fisso vuol dire che stai già iniziando a distorcere, e l'ho fatto abbassare un pochettino. Tu e Ranero e Gianni Rubroffetta siete il rosso fisso, teoricamente dovreste abbassare un pochettino perché siete già al limite della distorsione, cioè già in distorsione, il punto minimo della distorsione. Però devi considerare che tu sei molto più lontano, per cui se abbassi troppo magari qualcuno più lontano di te non ti ascolta più. Noi, per il mio coso, il discorso che qua stai arrivando oltre 9 di segnale, dalle mie parti dovresti abbassare appena appena la radio, però magari se abbassi da me qui tra il busso di Sonso o qualche altro paese ti ascolta troppo basso. Vabbè, ma anche tu sei alto nei confronti degli altri, sei altissimo, cioè alto un bel. Aspetta un attimino, allora mi abbasso io. Molte volte non me ne accorgo quando... Guarda adesso. Va passaggio. 1, 2, 3, provo la radio. È alta, Roberto. Non so, Massimiliano, confermi. Sei un pelino, ma va bene comunque. A me piace la radio un po' fortina, Ma Luca, non devi abbassare. Per me la radio di Luca è perfetta, va bene così. No, Luca gliel'ho fatto abbassare, Massimiliano. Poco fa era troppo alto. Quanto c'è? Prova a metterlo a mezzogiorno, il micheghino, Luca. Guarda, adesso è a mezzogiorno. È già forte così, mi figurati. Sì, vabbè. La lascio così, Robe, va bene? Boh, io se vuoi essere critico, Peruzzino l'avrei abbassata, però Luca, vedi tu, lo sai cos'è il problema? Se tu parli normale, così come sto parlando io, perché anche a me molte volte mi viene di alzare un po' la voce quando c'è una conversazione animata, magari di lì in quel momento lì distorci un pochettino. Se parli tranquillo per dire come stiamo parlando in questo momento, sì, però poco fa mi avete detto sono troppo alto, io forse ho alzato un po' troppo la voce, non lo so. Se alzi appena la voce va sulla distorsione, però non ve la futti nuda, diciamo, fate quello che volete, io vi sto dando soltanto un appunto da parte mia. Vabbè, però se posso, allora un conto è che uno sta facendo un maracchino, una cosa in mano, un palmare così, e un conto è come stai uscendo tu, sono due cose completamente diverse, capito? Quindi anche in ricezione sono due cose diverse, un conto è ascoltare con un baracchino e un conto è ascoltare con altri tipi di apparecchiature, quindi magari non lo so, perché secondo me la radio così, io sto ascoltando con un baracchino, secondo me va bene, non è né alta e né bassa, è giusta. Allora Massimiliano, io sto guardando a te, faccio un esempio con te, la radio tua è entro i limiti, io non sto ascoltando soltanto, io sto anche guardando, perché ho delle cose che mi permettono di guardare, degli indicatori a LED, ci sono delle barre con tutti i decibel e mi dice quant'è che stai andando fuori. Luca, quando alza un pochettino la voce, diventa rosso fisso, rosso fisso vuol dire che stai iniziando a distorcere, dovrebbe lampeggiare il rosso, cioè fare leggermente il coso del lampeggio appena appena, ma quando c'è il rosso fisso con la distorsione stai saturando la modulazione. E questo discorso l'ho detto anche leggermente a Eugenio, però l'Eugenio è un po' lontano, per cui è sopportabile il discorso. Idem, scusate, Gianni Rubroffetta, secondo me, se vogliamo essere precisi, la bassa appena appena e vai benissimo. Poi, se a voi piace la radio, di chi ti ha fabbrutto e cosa del genere, un altro discorso. Qui la mia va bene. La tua è perfetta, non c'hai né basso né alto, sei giusto entro i limiti. Quando parli, sei esattamente entro i limiti delle strumentali. Poi, se a uno dice, voglio alzare di più, che voglio una radio che spacchi tutto quanto, che mi sentano da tutte le parti, però state attenti che sollevando troppo si formano anche gli sbatteri, disturbi i canali adiacenti, e non so se sia tanto bello, se siete vicini si sentono di due o tre canali spostati. Avanti. Avanti. facendo con un leggero fischio, non so se te l'abbiamo detto, non siamo appena... Tu non c'è radio. Cosa c'ho, un fischio? Oh, non mi hanno detto niente, vabbè. Oh, prova a parlare, cioè non parlare, manda solo portante, non me ne sono accorto. Non so se c'è fischio sotto. No, io non sento niente, Massimiliano, non ho fatto niente. Aspetta, avete parlato in due, cos'è Roberto? Io non ho sentito niente, è pulita la radio, tranquillo. Adesso non l'ha fatto, l'ha fatto poco fa. No, non lo so, cos'è? Dimmi oggi. No, adesso prima con la radio il passaggio l'ha fatto già. Fischio, io non ho sentito il passaggio, l'ha fatto già, era sulla radio. Perché aveva il mic gain è basso, l'ho spolverato l'apparato, è abbassato, adesso l'ho alzata, guarda come va. Adesso va bene. Però il fischio c'era, ma si vede, te lo assicuro. Quando è parlato poco fa si sentiva un fischio leggero, ma si sentiva. No, non lo so, perché infatti lì stavamo parlando proprio di radio, già. Stavamo parlando proprio di potenza di radio e... Infatti proprio a Roberto gli ho chiesto a vedere la radio mia come andava e non mi ha detto niente, infatti ho detto sicuramente la sta andando bene. E infatti, no, che non se ne sia accorto, guarda il gruppo della macchina, magari non ci ha fatto caso. Vabbè dai, procediamo, meglio così, adesso non si sente più. Ok, no, va bene. Facciamo a parlare già nel rubrofetta perché era un po' in parcheggio, avanti già. Eia, dai, adesso facciamo una prova. Allora, c'ho il volume del microfono, sopra il microfono, proprio lo slider, il cursore, che è a metà. Adesso facciamo una prova. Allora, c'ho il volume del microfono a metà e il volume, il mic gain della radio al massimo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso te lo metto a metà, cioè a mezzogiorno, e mi dici la differenza, ok? Adesso, mic gain alle ore 12. Della radio. Allora, quando è abbassato andavi bene, secondo me eri troppo alto, stavi già distorcendo, ti sentivi tutti i respiri, tu tutte le cose, dovresti abbassarlo appena appena con la radio. Quando hai fatto il passaggio che hai detto che hai abbassato andava bene. Ok, confermate? Sì, io confermo, così ti ascolto, vabbè, ti ripeto, a me piacciono le radio forti, però così ti ascolto bene. Vabbè, Massi, non ti ho salutato, ciao anche a Doppio Room. Eugenio? Sì. Anche da parte tua io ti dico, però c'è da dire che tu sei più lontano, piano piano decade un pochettino la radio, ma lì, quelli che sono a portatore li fai surdi secondo me. Tu dovresti anche tu secondo me abbassare un peluzzino, vedi un po' tu dai, se vi piacciono le radio rumorose io dico deve essere il più fedele possibile la radio. Quando inizi a distorcere senti come fai, sembra che stai strillando, secondo me è meglio abbassarla un pochettino, tanto i segnali sono tutti furti, stiamo parlando tranquillamente, per cui non devi fare megafono da nessuna parte. Sì, sì, ma io sono d'accordo, vabbè. Sì, mi aspetta, guarda, adesso te lo porto il volume, te lo guarda, è a mezzogiorno pieno. Aspetti, sei spostato dalla direzione del microfono, prova a parlare. Guarda, adesso è a mezzogiorno, ora sono a mezzogiorno. Allora Maria, avvicinati un pochettino al microfono e solleva un peluzzino. Allora sono a mezzo braccio e l'ho messo a 7, dai. Solleva ancora un pochettino. Sono sempre a mezzo braccio e l'ho messo a 7,5. Se tieni questa tonalità di voce va bene, dai, sei entro i limiti, dai. Ok, io molte volte non me ne accorgo perché cerco di non toccarlo mai il microfono, il livello del microfono, però molte volte se magari vai in FM e sale troppo di potenza allora devi abbassare questa radio. Lo cerco sempre a 1 normalmente, però molte volte ti avvicini, qui adesso sarò 80 cm, 70 cm dal microfono, però molte volte ho detto dalla foga della conversazione, molte volte non te ne accorgi, magari ti avvicini un po' di più, alzi un po' la voce, magari diventa troppo forte. La mia com'è, Roberto? Come mai che ha fatto a maletta? Io ho solo il microfono. Ciao, lascia la stare così, Giorgio. Va benissimo. Scusa, già, cosa hai detto? Ho detto la mia, come va di radio? Secondo lo strumento che hai. No, la radio a parte l'eco, che te l'ho sempre detto, a me non piace. E il livello, teoricamente, tu dovresti alzare un peluzzino. Ma io non posso alzare niente, perché qua il macchinino è al massimo, la radio è normale. Quindi per alzare dovrei mettere l'eco per sentirsi più forte. Allora, così è perfetta la radio, proprio chiarissima, niente da dire. Un peluzzino più alta e sarete ottimale. Comunque, lascia così, dai. L'eco, purtroppo, quando metti l'eco ti dà un po' di distorsione, ti sporca un po' la modulazione. Così è perfetta. Vorrebbe un peluzzino più alta, però ha detto che sei al massimo, per cui lascia stare tutto così. Ah, poi vabbè, penso che il microfono originale, vabbè. Il microfono del Galaxy originale. No, così è perfetta. Se c'hai questa modulazione non ti devo dire niente, è tutto perfetto. Un peluzzino un po' più alta per avere da essere pignoli, ma la radio è chiara, non dico niente. Ok, vediamo Gianni Rubrofetta, io aspetto ancora qualche minutino, poi mi devo allontanare. Dai Gianni, a te. Eia, considerando che io il palmare lo tengo a quattro dita, insomma, 8 centimetri, 10 centimetri dalla bocca, e quindi al contrario dei microfoni a tavolo, che insomma bisogna usare in una certa maniera. Poi chiaramente c'è da considerare anche la dinamica vocale. Niente, no, volevo sentire Luca invece come mi riceve lui. Luca, come mi ascolti? Dove stavo? Si è spostato. Tu Gianni, come mi ascolti così? Bene, bene, tranquillo, va benissimo. Ok, dai. Quindi abbiamo fatto questo test con volume sul mic a metà e mic gain a metà. Ok, dai, avanti Roberto. Vabbè, io dico soltanto una cosa, perché non voglio fare, ve l'ho sempre detto, a me non piace fare il fighetto, il presuntuoso. Se volete, se vi fa piacere, io i controlli ve li do e ve li do con criterio. Poi se qualcuno si offende o dice che cacchio non ne frega niente, ditemelo e non le do a nessuno, perché non voglio essere il figo della classe, dai. Sì, no, io. Dai ragazzi, io vi lascio, che mi hanno chiamato giù, dai. C'è la 50 che ha bisogno di una mano giù, nel piano di giù. Ci sentiamo, dai ragazzi, faccio un saluto cordiale a tutti, dai. Se no vi cavo uno a uno, ok? Ciao, ti rilancio a te, Gianni Rotturo. Ciao, buona serata. E allora, ci mi hai fatto bene a rilanciare, perché sto credendo anch'io. Ti saluto cordialmente, la buona continuazione di serata, la buona carica quando la fai. E un saluto a tutti gli amici, dai, faccio corretti anche io che vado a mangiare. Ciao a tutti. Dai, riprendo il mic io. Anche io adesso chiudo, dai, scusate per quelli che magari si vogliono trattenere. Ciao Massimiliano, ciao Gianni e tutti gli amici, Eugenio e Gianni Rubrofetta. Dai, tutti gli eventuali amici su questo canale 10. Io chiudo corretti, anche io vado a mangiare. Ciao ciao. Dai, riprendo io, ciao a tutti, e anche io vado a cenare, c'ho fame. Ciao Gianni, ciao Roberto, ciao Massimiliano e ciao Gianni Doppio Roma. A domani, ciao ciao. Ehi, aspetta Lu, come mi ascolti che ho toccato il volume? Isetta, fai. Beh, io dovrei aspettare ancora, dai, prima di dover aspettare. Aspetto qua un po'. Fai un passaggio Gianni. Allora, ho il volume del microfono a metà e il mic gain della radio a metà. Dimmi come mi ascolti. No, ti ascolto benissimo, a voglia, a bomba. Perfetto, grazie Lu. E niente, salutoni al resto della ciurma, a Roberto Bulldozer e Doppio Room. C'è rimasto anche ancora Eugenio, non so se tu ti trattieni. Anche io mi trattengo da anche 5 minuti, da che ancora la papa non è pronta, vedo la vivosa chi dà. C'ho fame, non molto, comunque là, ci posso aspettare ancora. Mangiato è tu Gianni? Mi sono mangiato un po' di fave poco fa e quindi la lascio col decio. Magari dopo gli do l'altra passata. Che hai mangiato? Fava di visare. Sapete se turbiamo. Tranquillo, già sono da solo. Capo. Ascolta, ma allora, io ce l'ho così il microfono, no? Ok. Da così, a così c'è differenza? Sì, ma di brutto. Tendo a strappare? No, non si capisce, allungalo, staccato la bocca. Ci ho staccato la bocca, no, ho già staccato la bocca, vedi? così staccato dalla bocca, ora un po'. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, va bene Luigi, lascia Luigi. Questo è un gioco, come dice Claudio, lascia andare Luigi. Adesso mi compro la sparacchio di domani, avanti, da te va bene Gianni. Puntella, puntella, lagaro così, dai. Sì, io siamo alza, abbascia, fara, così, va, boh, siamo un buco blu eccomi, gabagabagab, no, dai, dai. Facciamo radio, ecco, aspetta. Mettiamolo così e non tocchiamo più, va. Aspetta, ti mando la foto, dici. Ti mando la foto dalla radio, aspetta. Vai, vai. Oh, yeah. Oggi zero propagazione, dai. Aspetta, l'ho mandato, dici. E ora tornato, dai, più o meno. Sì, 4.5, 84 S, sì. Sì, però se lo trovo uno, in buone condizioni, senza i graffi, me lo prendo, Però ovvio, sto a base di bagaglio a pensare. No, ci vuole avere non li voglio per ragione, andiamo un po', no. Oh, non c'ho spazio, capito? Ma non c'ho spazio, non mi interessa, io preferisco più i veicolari. Lo so Luigi, ma non me lo è la metà, non me la fastidio, è sotto. Oh, non manco lo vedo, guarda. Il alimentatore è macro, che prima l'andazia si riparava. Sono per una misura, vediamo un po' se io ho messo a 13,9, va bene lo stesso, non c'è niente. Aspetta che lo misuro di nuovo, riprendi Gianni. Eia. No, a me mi sono sempre piaciute le prestazioni base. Hanno il loro fascino, hanno il loro perché. In particolare il Galaxy è una di quelle radio che mi piacciono, dai. Investimento magari, quando capiterà l'occasione, cioè il momento propizio, perché adesso non c'è trippa per gatti. E a 14, non gli fa niente, voi sapete che vengono a 8, è la posta adesso. Mi sentite, sì? Campo di Rosigo, come dice Massimiliano, è cosa? Campo di Brioche. Ho detto che stasera propagazione è proprio zero. Stasera sì. Ieri sul 20 c'era tutta la Puglia, Taranto, Bari, Lecce, tutta la Puglia collegata c'era. Lo so, ho sentito, ho fatto collegamento a Puglia. C'era una bella ruota, eravamo con Roberto, poi è entrato anche Giulio, mi pare, sul finale. C'era un bel po' di movimento, dai. Vedete se vedete il nuovo video, sì. Genio! Bau. Allora, sono entrato su eBay. Stazione CB perfetta Galaxy Saturneco più KLV 1000 a valvole. Sicuramente sarà un finale. 750 euro. Elegante. Chi era? Non era Genio, avanti. No, secondo me c'è quella 180 euro. Quella 200 euro. Allora, c'è quello con un lineare che è 750, poi c'è un Galaxy Saturn Turbo 168, poi c'è un altro Galaxy 400, ce n'è una 399, una 490, Appetito Eugene. E niente, sì. La bocca piena, Campo di Brioche. Povero mondo che passa la guerra. Siamo in guerra ancora. Mamma di Turchi. Sto guardando questo da 750 euro. Però non si vede l'altro apparato. Ah ecco, c'è anche il lineare, sì. Sta vendendo il Galaxy più un lineare. Ecco perché 750, e ti grido. E adesso vediamo se si può trovare 747. E mi va bene, dai, giusto così. Fare un po' i collegamenti, prima lo provo bene. Non sono sicuro che funziona bene, nel senso che devo dare i fatti giusti, allora si può attaccare. Bene. venera, bene venera, bene venera. Vabbè ragazzi, io vado a mangiarmi il resto delle fave, dai, mi avete fatto entrare la fame, ragazzi. Va bene, dai. Lui, io stacco, dai. Ci sentiamo domani magari. Salutoni a te e Eugenio se l'ascolta, ok? Ciao ragazzi, buona carica. Ehi, allora, ciao, anche a te, salutoni, buona carica, buon tutto. A domani, ciao Eugenio, dai, anch'io adesso mi sposto, dai, vado a mangiare e poi mi impigiamo. A domani se Dio vuole, ciao e buona cena anche a te. Ciao anche gli ascoltori, ciao. Ciao.